2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati a 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Se invece di scrivere un messaggio di posta elettronica, soprattutto in questo periodo, volete inviare gli auguri con la vecchia e cara lettera di carta, l'altro giorno sono andato a trovare una persona che probabilmente sarà anche nostra ospite in trasmissione tra poche settimane, che aveva una bella pila di messaggi, di cartoline d'auguri da firmare, messaggio stampato, ma la firma si fa magari con qualche aggiunta, scrivendo con la penna a mano. Beh, se volete essere aiutati, esiste una società che ha inventato un robot. Oramai i robot fanno moltissime cose, ma questa mi sembra una cosa molto, molto curiosa e adatta soprattutto al periodo natalizio. Allora, la società è una startup che ha sede a New York, si chiama Bond e ha un robot che riesce a fare, a scrivere e naturalmente a fare anche le firme con la scimmiottando e replicando la scrittura umana in modo, devo dire, molto molto accurato. Questa società ha già raccolto, pensate, alcuni milioni e pensa di essere in attivo già dal prossimo anno, pensa di fatturare 500.000 dollari al mese già entro la fine dell'anno. Insomma, parliamo di cifre incredibili, perché pare che soprattutto negli Stati Uniti ci siano un sacco di persone che vogliono scrivere. Il servizio per il momento è solo su invito, c'è un abbonamento, costa 1.200 dollari all'anno, ma spedire una cartolina dopo che il robot ha fatto, ha scritto magari un messaggio che noi abbiamo inviato con l'app sullo smartphone, con la nostra calligrafia, se vogliamo, il servizio costa 1.200 dollari all'anno, ma il costo di una singola cartolina spedita è di 3,50 dollari. Ci sono prezzi molto più bassi per abbonamenti aziendali. Si possono scegliere tanti stili di scrittura. Se uno vuole il proprio stile, può inviare la propria scrittura che viene digitalizzata e acquisita dal robot, dal computer, per 500 dollari. Quindi questo servizio non è sicuramente economico. Comunque è un'idea sicuramente interessante, simpatica, curiosa e in modo particolare in questo periodo in cui alcune persone hanno parecchie lettere. Certo, il fascino non è lo stesso, ma chi riceve la cartolina con una bella scrittura a mano, chi lo sa se è stato un robot o è stata una persona umana a fare la firma e a scrivere il messaggio? Come sempre iniziamo dalle nostre Digital News, alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda uno dei più noti siti di e-commerce, il sito tedesco Zalando, che ha 17 milioni di clienti ed è molto noto per l'abbigliamento, ha aperto in Italia, a Stradella, in provincia di Pavia, il primo magazzino satellite al di fuori della Germania. Il sito comincerà a funzionare all'inizio del 2016, questo magazzino. Secondo Zalando, in questo modo le consegne in Italia potranno essere ridotte a 2-4 giorni, con l'obiettivo in prospettiva della consegna in giornata, che è uno degli obiettivi di molti e-commerce. Alcuni lo stanno già facendo nelle grandi città. Zalando ha circa 10.000 dipendenti, opera in 15 mercati, ha un fatturato di quasi 3 miliardi di euro. Digital News. Disponibile sia per iOS che per Android, Spotify ha lanciato un nuovo servizio che si chiama Spotify Party, cioè è un sistema che mixa le tracce musicali come fosse un DJ, un robot DJ. Questo avviene in modo automatico dopo aver caricato una playlist suggerita o fatta apposta secondo i propri gusti. Si tratta di una novità per il mondo consumer, ma software di questo genere, professionali e più sofisticati, sono oggi utilizzati da molti DJ per sincronizzare i brani. Sapendo usare questi software, in molti oramai possono mixare le canzoni, ma come sempre la differenza la fa la creatività. Direi che oggi la differenza non la si fa più se si sa mixare, ma se si fanno altre cose molto più creative. Digital News. Secondo la Consumer Technology Association, che è il nome nuovo della Consumer Electronics Association americana, quella che organizza il CES, il Consumer Electronics Show, Durante le prossime festività gli americani acquisteranno una cosa come 700.000 droni, e parliamo di droni giocattolo, cioè quelli consumer, non i droni professionali. C'è però una novità importante negli Stati Uniti, e in questo caso è sicuramente una novità che potrebbe poi far scuola in altri paesi, perché da lunedì 21 dicembre questi droni dovranno essere registrati sul sito della Federal Aviation Administration, cioè l'amministrazione che governa i cieli americani. È una novità molto importante per gli Stati Uniti e sicuramente lo sarà anche per altri mercati. Digital News. Un'ultima notizia che riguarda Android. Se avete uno smartphone con l'ultima versione di Android 6.0 Marshmallow, da ora è disponibile anche in italiano il servizio Now on Tap, che in italiano è stato tradotto come Now ovunque. È un servizio che permette di trovare informazioni in base al contesto senza uscire dall'app che si sta utilizzando, tenendo premuto il pulsante Home. Molto più facile a farsi che a dirsi, quindi potete provarla. È una parte del servizio Now di Google, l'assistente virtuale di Google sugli smartphone Android. Questo però è solo disponibile nell'ultima versione di Android. Allora, tra poco parleremo di una novità che è stata lanciata in settimana da Deezer. Prima una considerazione sull'andamento della pubblicità online. Sapete che questo mercato è molto importante perché mano a mano che cresce internet, buona parte dei contenuti che sono erogati via internet sono gratuiti e quindi sono pagati dalla pubblicità, e il tema della pubblicità è un tema molto importante. Allora, il primo dicembre lo IAB, lo Interactive Advertising Bureau, che è una delle associazioni di riferimento nel mondo della pubblicità digitale, aveva annunciato un nuovo record per la pubblicità online in Italia. Investimenti in crescita a doppia cifra, più 10%, e un valore oggi del 30% di tutto il mercato pubblicitario. Quindi internet vale il 30%, quasi un terzo di tutto il mercato pubblicitario in Italia. Allora, questa settimana è uscito un dato rilevato da Nielsen. Io quando è uscito questo dato ho detto: ma come? Più 10% addirittura? Molti dicono che la pubblicità non sta andando benissimo su internet. Allora, questa settimana è uscito un dato rilevato da Nielsen, che è una società che rileva buona parte delle cose che succedono nel mondo, ma nella pubblicità in modo particolare. Allora, internet, relativamente al perimetro attualmente monitorato, si stabilizza a ottobre al meno 0,1%, quindi sostanzialmente stabile, assestando il decremento al meno 1,2% sui 10 mesi del 2015. A questo punto uno dice: ma come? Uno dice che aumenta, l'altro dice che si abbassa. Allora, poi continua Nielsen e dice: sulla base delle stime di Nielsen relative al totale della pubblicità sul web, aggiungendo dunque la porzione di mercato non monitorata, quella che non si riesce a misurare, poi spieghiamo di che cosa si tratta, la pubblicità digitale crescerebbe invece del 9% per il periodo gennaio-ottobre 2015. Quindi a questo punto i due dati collimano, più 10 uno, più 9 l'altro, insomma sostanzialmente è una buona crescita. Allora, questa però è la situazione. Gli investimenti crescono solo grazie al search e al social, cioè alla ricerca e ai social network, cioè a Google e Facebook, che non sono monitorati, nel senso che tengono i dati riservati per sé, non li dicono a nessuno, e il loro giro d'affari può essere solo stimato. Quindi, se la crescita è di soli due soggetti, pensate, due soggetti sostanzialmente fanno gran parte della crescita, perché se parliamo di search e di social, questi sono i due soggetti, insomma, non c'è tanto da cantar vittoria. Quindi io penso che le associazioni, a partire dallo IAB, dovrebbero essere preoccupate per questo settore che sta vivendo una fase piuttosto complicata. Questo è un tema molto importante perché l'abbiamo affrontato varie volte. Ci sono tutta una serie di segnali che arrivano dai consumatori, non ultimo l'ad blocking, tutti i software che fermano e bloccano la pubblicità, che secondo me sono un danno all'industria, che però sono un segnale inequivocabile del fatto che la pubblicità è troppo invasiva, troppo insistente. Quindi qualche cosa bisogna inventarsi e qualche cosa bisognerebbe fare. Poco sta succedendo. Continuiamo parlando di una novità, e anche in questo caso per capire che cosa sta succedendo nel mondo dei servizi audio in streaming. Sentite che cosa ha lanciato questa settimana Deezer, che è uno dei più importanti servizi di streaming online. Cinzia Rinelli è responsabile marketing di Deezer in Italia. Questa settimana abbiamo esteso a 14 paesi in tutta Europa la nostra offerta in termini di cronaca in diretta del calcio, e soprattutto per quanto riguarda la Premier League inglese e la Bundesliga. Questo avviene attraverso una sezione dedicata al calcio, che è disponibile quindi agli utenti di tutti i paesi coinvolti nell'operazione. L'Italia è uno di questi, e si tratta sostanzialmente di un'estensione di un qualcosa che ha già provato avere successo proprio in Inghilterra e in Germania, motivo per cui abbiamo deciso di aprire questo tipo di contenuti anche agli altri paesi, perché di fatto abbiamo compreso già da tempo che la musica non è soltanto l'unica cosa che gli utenti vogliono ascoltare, ma anche le notizie e l'intrattenimento in generale. E infatti abbiamo acquisito lo scorso anno Stitcher, che è una società che sostanzialmente include una serie di podcast e programmi radiofonici, quindi abbiamo oltre 40.000 contenuti in questo senso. E ulteriormente, attraverso un accordo fatto a livello europeo con TalkSport e Sport One, abbiamo avuto in esclusiva in streaming per tutta Europa i contenuti della Premier League e della FA Cup, il calcio tedesco. Senti, allora potremmo dire che di fatto cominciate a fare concorrenza alla radio anche su prodotti in diretta. Sono contenuti in lingua italiana per il mercato italiano? Sono per adesso contenuti in inglese e tedesco. E abbiamo anche qualcosa in spagnolo, e al momento quindi non c'è nulla di italiano, né dal punto di vista dei contenuti né dal punto di vista della lingua parlata. Questo è il vostro primo esperimento di contenuti in diretta? Ce ne sono già stati o ce ne saranno altri? Allora, abbiamo già avuto in realtà altri contenuti in diretta e continueremo ad averne in futuro, e tant'è che proprio domani avremo un live trasmesso in streaming sempre attraverso Deezer del concerto della serata di David Guetta in diretta da Parigi. Insomma, interessante capire che cosa sta succedendo anche nel mondo dell'audio in streaming, soprattutto per chi fa la radio, perché questi sono servizi che ovviamente sono in competizione in primis con la radio. Siamo ancora molto lontani da una diffusione di massa. Già internet lo usa più o meno metà della popolazione, questi servizi ancora una quota molto molto ristretta, però stanno crescendo molto e sicuramente in futuro rappresenteranno un competitor molto importante. Però noi siamo per l'informazione aperta, quindi parliamo anche di questo servizio che già oggi potrà essere un competitor delle radio. Poi è anche vero che le radio sono produttrici, produttori di contenuti che potranno essere veicolati anche attraverso questi sistemi. Allora, una notizia che riguarda la California. In California sta per prendere forma una regolamentazione per le auto a guida autonoma, che potrebbe costituire un precedente per altri paesi. Il dipartimento che supervisiona il settore dei veicoli a motore, quindi potremmo dire il corrispondente della motorizzazione civile della California, ha pubblicato una bozza i cui punti principali sono questi. Allora, prima di tutto, il veicolo deve essere pilotato da una persona con la patente che possa prendere il controllo dell'auto in caso di problemi. E qui già c'è una polemica in atto negli Stati Uniti, perché secondo alcune ricerche, secondo alcuni test che sono stati proprio effettuati con persone su veicoli a guida autonoma, veicoli automatici, allora questi test dimostrano che chi sta sopra un veicolo capace di guidare in autonomia, dopo un po' si fida della macchina, quindi non ha più nessun timore, lascia fare tutto alla macchina e non presta attenzione alla strada, al punto che non è in grado di prendere il controllo del mezzo in caso di emergenza. Quindi i critici dicono: ma come? I veicoli automatici sono fatti per essere proprio per andare in autonomia, e voi dite che con questa legge ci deve essere il pilota a bordo pronto per prendere il controllo della situazione. Qui si potrebbero fare anche dei paragoni con gli aeroplani. In alcuni casi, venuto meno il pilota automatico, i piloti non sono stati in grado di riportare l'aeroplano in posizione corretta e alcuni aeroplani si sono schiantati. Ma insomma, la discussione è approfondita, molto vasta, e infatti in California c'è un acceso dibattito. Poi, che cosa dice questa bozza? I veicoli devono essere verificati da una terza parte e non possono essere venduti ma affittati. E qui c'è tutto un problema anche di responsabilità. Poi devono prevedere misure, cioè le case automobilistiche devono prevedere misure per evitare che un hacker possa prenderne il controllo. Qui sono dolori. E devono comunicare, sempre i produttori di questi veicoli devono comunicare ai consumatori che tipo di dati vengono raccolti su di loro. E qui è un tema che si lega molto a quello che sta succedendo su internet. Comunque c'è tanto da imparare, tanto da sperimentare, e ancora molte domande alle quali non c'è risposta, ci sono insomma molti punti interrogativi. Ad esempio, se uno ha un tasso di alcol fuori legge, non dovrebbe poter guidare un veicolo automatico, perché la legge dice, siamo ancora ad una bozza della legge, però questa legge dice il pilota deve essere in grado di prendere il controllo in caso di emergenza. Ma uno dei motivi per cui stiamo costruendo veicoli autonomi è anche fare salire su un'automobile persone che non possono guidare. Ad esempio, i produttori di autoveicoli a guida autonoma dicono sarebbe una ottima occasione proprio perché uno va fuori a cena, magari beve un po' troppo e quando torna guida la macchina in autonomia. In questo caso non si potrebbe fare. Allora, in California ci sono già 11 case automobilistiche o cose analoghe, tipo Google, autorizzate a fare viaggiare veicoli autonomi, che hanno un po' tutti criticato questa bozza. È sicuramente un tema molto interessante, perché sembra che questi veicoli siano lontani da venire. In realtà già oggi ci sono veicoli che non sono proprio a guida autonoma, ma che hanno un sacco di sistemi di assistenza alla guida che più o meno guidano da soli, soprattutto se siamo in autostrada. Pensate che ci sono macchine, ma ce ne sono varie, che hanno controllo della corsia, quindi stanno in corsia, che controllano il veicolo che precede, mantengono la distanza di sicurezza, quindi uno per ampi per molti pezzi di strada potrebbe anche non tenere le mani sul volante, insomma fare altro. Poi è pericoloso, uno potrebbe dire, però già oggi può succedere questo. Proseguiamo con 2024, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di quello che succede, una delle tante cose che succedono su internet. Allora, per rendere più veloce, per velocizzare la fruizione dei contenuti sulla rete internet, soprattutto video, perché sapete che i video sono pesanti, quindi devono essere agevolati, esiste su internet un complesso sistema di server che di fatto serve per avvicinare quel contenuto. Un video di un servizio americano, ad esempio, difficilmente viene erogato dagli Stati Uniti, ma probabilmente dietro casa nostra, comunque molto vicino a casa nostra, di un video, di una fotografia, vengono fatte migliaia di copie nel mondo proprio per avvicinare i contenuti ai consumatori e quindi diluire il traffico globale della rete. Questi servizi si chiamano Content Delivery Network, CDN. Il principale player mondiale è Akamai, che ogni 3 mesi realizza uno studio sulla velocità e sulle performance della rete internet, e tra poco parleremo anche di performance della rete, ma iniziamo cercando di capire come funzionano questi servizi che sono essenziali per il funzionamento del web come lo conosciamo oggi, che è pieno di contenuti multimediali. Ne ho parlato con Alessandro Livrea, che è country manager di Akamai in Italia. Di fatto va ad incrementare le performance e quindi la capacità per i nostri clienti di consegnare l'informazione, che può essere vista sotto tanti punti di vista, in modo particolare nel mondo del media, quindi il video, contenuti audiovisivi, nel mondo web, siti desktop piuttosto che mobile, piuttosto che applicazioni. Come fate a fare tutto ciò? Lo facciamo con l'infrastruttura più grande al mondo. Oggi sono circa 200.000 macchine collocate all'interno delle ISP, quindi le telecomunicazioni locali, ma su scala internazionale. Di fatto cerchiamo di avvicinare i contenuti dei nostri clienti, quindi le aziende, le grandi aziende, il più vicino possibile agli utenti finali di quelle aziende, quindi i consumatori fondamentalmente. Quando tu parli di macchine, parliamo di server, quindi di grossi computer che risiedono nelle centrali, una volta si diceva le centrali telefoniche, insomma, dove passa il traffico internet, i nodi della rete internet. Mi fai un esempio di quello che succede? Tu dici, noi cerchiamo di avvicinare il contenuto. Quando io clicco sul mio computer e voglio vedere un video, una fotografia, guardo un sito internet, il vostro ruolo qual è? Il nostro ruolo è quello di collocarci tra colui che sta accedendo a quel sito e il data center delle aziende. Lì dove possibile, con delle tecniche che vengono chiamate di caching, spostiamo i contenuti, tipicamente quelli statici, le immagini, contenuti anche video che però sono sempre statici, non cambiano nel tempo, documenti, qualunque documento in PDF. Quindi anche un film. Corretto, anche un film, un intero film o spezzone di film, quello che si vuole. Noi per contenuti statici intendiamo quello che è legittimamente visibile da persone diverse allo stesso modo. E poi ci sono tutta una serie di contenuti che non possono essere cacheati, cioè quindi replicati sulle nostre macchine. Quei contenuti hanno bisogno di tecniche diverse, che noi chiamiamo di accelerazione fondamentalmente, ma che permettono in realtà di spostare più rapidamente su internet quei contenuti. Quindi se capisco, correggimi se sbaglio, se io mi connego ad un sito internet in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti o anche in Italia, molto probabilmente il contenuto che io ricevo sul mio computer arriva direttamente da un server di Akamai che magari è dietro l'angolo, o più o meno. Uno su tre tipicamente sì, ogni click su tre tipicamente scende da una delle nostre macchine a livello globale. Quanto è il traffico che voi fate transitare sulla vostra rete? È circa il 30% del traffico web mondiale, considerando che alcune cose non le serviamo per policy, vedi il mondo del porno che non passa mai dalle nostre macchine, direi che del traffico legittimo è veramente una buona parte. Sì, immagino anche tutto il peer-to-peer illegale non passi da voi. Corretto, corretto. Quindi escluso, diciamo, del traffico che può essere etichettato come illegittimo, grossa parte del traffico legittimo passa da noi. Allora, voi facendo tutto ciò, noi adesso l'abbiamo fatta molto, molto semplice, registrate quello che succede anche in termini di velocità e siete in grado di dirci, ad esempio, in Italia qual è la velocità media della rete internet. Sì, è corretto, perché proprio perché abbiamo questa buona visibilità sugli accadimenti del web e riusciamo a registrare le velocità con le quali gli utenti, in realtà non abbiamo una visibilità sugli utenti, ma sull'IP, con i quali gli utenti si connettono e quindi riusciamo a tracciare quelle che sono le velocità medie globali nel mondo. Questo è molto interessante, non sotto il profilo, diciamo, del business di Akamai, ma perché dà una buona mappa di come stanno andando le cose nel mondo. E ci sono dei fenomeni particolari, diciamo, paesi che si sono affacciati dopo sulla scena internazionale oggi hanno delle velocità di connessione più alte, ad esempio, della vecchia Europa. Paesi dell'Est hanno oggi connessioni più alte di quelle italiane piuttosto che francesi. Tipo? Ma una su tutte che si cita spesso è la Romania, che ha delle velocità di picco medie di oltre 30 megabit per secondo, dove in Italia invece abbiamo una velocità media di 6,5 megabit per secondo. Sì, la velocità di picco però è un po' più elevata, forse anche in Italia. Sì, ma non tanto, scusami. In Romania abbiamo toccato il 72 megabit per secondo, in Italia il 30 megabit per secondo, quindi loro sono circa il doppio di noi. Poi sulle velocità torniamo tra poco. Questo è Alessandro Livrea, la voce di Alessandro Livrea, Country Manager di Akamai in Italia. Riprendiamo tra poco, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, stiamo parlando di velocità della rete internet e alla notizia che siamo 23esimi nella regione europea uno dice vabbè, bella scoperta, lo sapevamo, beh però queste cose è meglio dircele, ridice, visto che alcuni operatori di connettività internet dicono che stanno facendo tantissime cose per portare internet in tutta Italia e quindi portarci ai livelli europei, è bene ricordarsi bene queste cose. Dunque, a proposito di velocità rilevate in modo molto puntuale e preciso da Akamai, e rimaniamo solo all'Europa, non voglio in questo caso, in questa puntata, andare a guardare quello che succede in Asia in modo particolare, perché poi se andiamo a vedere gli Stati Uniti non è che eccellono in termini di velocità, magari le connessioni sulla costa sono piuttosto buone, ma poi se si guarda tutto il paese non fanno un figurone. Sicuramente i giapponesi, i coreani, molti paesi insomma dell'Asia fanno una bella figura. Se guardiamo all'Europa, la velocità media rilevata delle connessioni in Svezia è di 17,4 megabits al secondo, velocità media. Norvegia e Svizzera superano i 16 megabits, poi c'è l'Olanda che ha 15,6, Finlandia 15,8, e qui uno potrebbe dire vabbè, ma questi sono paesi particolari, piccoli, dobbiamo guardare i nostri competitor. Allora, il Regno Unito ha 13 megabits, la Germania 11,5, quasi il doppio dell'Italia, la Spagna 10,4, la Francia 8,2, l'Italia diceva 23esima, 6,5 la velocità media. Poi insomma ci sono molti altri dati, ci sono anche alcune zone del paese dove c'è fibra ottica, dove si va e funziona tutto molto bene. Ne abbiamo parlato, come abbiamo sentito poco fa, con Alessandro Livrea, country manager di Akamai in Italia. Un'altra considerazione, poi parliamo anche di sicurezza, un altro dato importante sulla security, un'altra considerazione proprio sulla velocità della rete internet in Italia. Non stiamo crescendo come dovremmo. Rispetto all'anno scorso tutti gli indicatori, quindi velocità media, velocità di picco, velocità sopra i 25 megabit per secondo, che poi è light broadband per come intendiamo noi, sono tutti cresciuti del 18% anno su anno, ma non è assolutamente sufficiente considerando il divario grosso che c'è rispetto ad altri paesi. Senti, voi tra i vostri business principali c'è quella dell'erogazione di servizi video che noi consumiamo. Noi non sappiamo che dietro ad un video particolare c'è Akamai, ma molto probabilmente molti di questi servizi sono vostri clienti. Le velocità che noi rileviamo nel nostro paese sono però sufficienti a vostro giudizio per cominciare a vedere tutti i servizi che si sono affacciati ultimamente anche in Italia, o sono riservati a pochi utenti che stanno nelle città in zone ben coperte? No, la velocità non è sufficiente oggi. In realtà per deliverare, consegnare quindi un video che sia in 4K c'è bisogno di una velocità che superi 15 megabit per secondo. Noi abbiamo solo il, se non erro, meno del 10% delle connessioni che reggono questo tipo di velocità, quindi non è sufficiente. Abbiamo il 65% delle connessioni che supera i 4 megabit per secondo, che però ormai è come dire, una quantità non sufficiente ad affrontare tipicamente l'HD, meno che mai il 4K. Ti faccio una domanda sulla sicurezza. Voi, oltre che alla velocità, intercettate anche gli attacchi. Da questo punto di vista, che cosa ci dici sull'Italia? Ma questa è una parte molto interessante. Di fatto la stessa visibilità che abbiamo sulla velocità lo abbiamo anche sul mondo della sicurezza e quindi su quelle che sono le minacce oggi del mondo di internet. E questo è uno dei nostri più grandi valori aggiunti, cioè poter condividere nella nostra rete l'esperienza che è data da questa visibilità. L'Italia è stata per a lungo, per tanti trimestri successivi, il primo vettore di attacchi fatti da mobile. Magari inconsapevolmente. Magari inconsapevolmente sì, perché non è raro che ci siano delle macchine, dei computer infettati che siano parte di una bot, ad esempio. Sotto questo aspetto, un altro aspetto invece dell'altro lato della medaglia che sta in questo momento vedendo l'Italia è che sono arrivati, purtroppo, ahimè, anche qui dei fenomeni che prima erano ritenuti totalmente esotici, ovvero famosi attacchi di DDoS, almeno dalle alcune aziende italiane, fino al 2014 era qualcosa che non gli sarebbe mai successo. In realtà noi stiamo registrando degli attacchi anche di portata notevole, 32 gigabit per secondo è uno degli attacchi più recenti che mi viene in mente, anche ad aziende italiane. Per quale motivo? Questo perché gli attacchi informatici oggi sono fatti, perpetuati soprattutto da organizzazioni criminali che non guardano di fatto alla nazione, guardano a una possibile fonte di lucro. Questi attacchi vengono fatti tipicamente a scopo estorsivo. C'è un gruppo molto attivo ultimamente anche in Italia che si chiama DDoS for Bitcoins. Ovvero fanno degli attacchi di DDoS, quindi attacchi volti a mettere in down i siti, gli asset digitali delle aziende, chiedendo un riscatto in Bitcoins, che è una moneta diciamo digitale che, avendo pochi controlli ed essendo poco governabile, è uno strumento abbastanza efficace per chiedere dei riscatti. Stanno migliorando le cose per il nostro paese o no? Stanno peggiorando, nel senso che stanno arrivando tanti attacchi anche qui. Forse prima l'Italia è stata lasciata un po' in modo positivo al bando perché non contava tanto sullo scacchiere internazionale. Non saprei dirlo perché gli attacchi vengono fatti o per ragioni politiche o per ragioni criminali. Stanno arrivando adesso tanti attacchi a scopo criminale. A proposito di velocità, anche Netflix, che da poco è arrivato in Italia, ha fatto una classifica delle velocità rilevate dalla propria rete verso i provider italiani. Quindi queste velocità sono molto relative, danno proprio un'idea, ma insomma stiamo parlando di una cosa che riguarda Netflix e gli operatori, quindi non la rete in generale, mentre Akamai ha una visione molto più vasta. No, qui stiamo parlando di velocità molto più basse. Secondo le rilevazioni di Netflix, Fastweb è la rete più veloce, ma sostanzialmente la velocità è molto simile a quella dei principali operatori italiani. La classifica è Fastweb, Wind, Telecom Italia, Tiscali e Vodafone. Ma stiamo parlando di un intervallo che va da 3,35 megabits a 3,59, quindi sostanzialmente sono tutti uguali. Non è che uno può vantarsi di essere un po' più veloce, dipende da mille cose. Allora, cambiamo argomento. Una cosa di cui parliamo spesso, magari senza citarla esplicitamente con un nome, è la cosiddetta Open Innovation, cioè la creazione di un ecosistema fra imprese e start-up che potrebbe dare un contributo molto importante alla nostra economia. Nei prossimi 3-5 anni l'impatto sul prodotto interno lordo potrebbe essere dell'1,9% e valere 35 miliardi di euro. Magari è un po' esagerato, però ci dà un'idea di quanto potrebbe essere comunque un impatto molto importante. Lo ha misurato, cioè questi numeri li ha pubblicati Accenture, che ha anche introdotto un indice di collaborazione, si chiama Digital Collaboration Index. Allora, partiamo dalla Open Innovation. Che cos'è e perché è importante? Marco Morchio è responsabile della divisione Strategy di Accenture. L'open innovation sostanzialmente è un meccanismo di collaborazione, come diceva lei appunto, che permette alle grandi aziende di collaborare creando un ecosistema con le piccole aziende, quindi di fatto con le start-up e con il mondo dell'innovazione che è esterno alle grandi imprese. Diciamo che l'elemento fondamentale di questa collaborazione è la creazione di un ecosistema attraverso il quale le grandi aziende non investono solo più al loro interno in programmi di ricerca e sviluppo, ma investono anche all'esterno, diciamo, nel mondo imprenditoriale delle aziende innovative. Questo sostanzialmente è l'open innovation. Dire che collaborare è utile spesso ad entrambe le parti è abbastanza scontato, però lo si fa poco. Esatto, il punto è che è nodale proprio questo, trattasi di, i modelli efficaci devono essere dei modelli collaborativi, perché questo modello di open innovation, di collaborazione tra piccole e grandi aziende, sia efficace, ci deve essere, collaborazione intesa come, diciamo, un'equa distribuzione, degli investimenti e dei benefici. Spesso, diciamo, l'acquisizione di start-up, è trattata con modalità più legate al mondo finanziario, quindi proprie, solamente di iniziative che vanno alla ricerca del puro valore. L'open innovation, in generale, l'ecosistema dell'innovazione, che è un po' diciamo, l'elemento, a cui tendere con questa leva dell'open innovation, è un meccanismo invece di collaborazione continuativo delle grandi aziende e delle piccole aziende. Come dicevo, non con una finalità di acquisizione unicamente, ma con una finalità di mantenimento di un ecosistema di piccole aziende che insieme alle large company, alle grandi aziende, permetta di dare un flusso continuo di innovazione. Il primo passo chi lo deve fare? Perché mi pare che siano spesso o troppo spesso le grandi o le medie aziende, quelle che potrebbero e a volte anche hanno le risorse per lanciare questi progetti di collaborazione che sono un po' timorose, non comprendono bene. Come vedete voi la realtà italiana in particolare? Diciamo, in generale, il movimento deve essere da entrambe le parti. Diciamo, nella nostra analisi, quelle che ci hanno portato a dire e a confermare da un punto di vista anche, diciamo, scientifico e matematico, con questo Digital Collaboration Index, che la collaborazione aumenterebbe la crescita di entrambi i mondi, la crescita del sistema paese. Insomma, parliamo di valori nell'intorno dei 35-40 miliardi solo per il sistema, paese italiano. Ecco, la collaborazione e l'avvicinamento deve avvenire da entrambi i mondi. Sono due mondi molto diversi, il mondo delle start-up e il mondo delle large company. Hanno meccanismi, processi decisionali, propensione al rischio, parametri finanziari anche di misurazione delle performance che sono completamente diversi. Quello che noi vediamo quindi è di sicuro un avvicinamento tra questi due modelli e una capacità di comprensione. Ci sono diciamo, degli strumenti che permettono di intermediare questi due mondi nel nostro percorso verso un open innovation efficace, quindi questi ecosistemi dell'innovazione. Uno degli strumenti che noi citiamo sono dei fondi e delle iniziative di corporate venture capital come primo elemento, attraverso il quale le grandi aziende, enucleano, separano un po' dei meccanismi di gestione e di governo dell'innovazione che sono diversi. Quindi, diciamo, un primo step di avvicinamento al mondo dell'innovazione. Ma anche nel mondo delle start-up, che appunto noi, in qualche modo frequentiamo e aiutiamo su diversi fronti e con diverse iniziative, deve un po' evolvere, maturare, dal punto di vista manageriale, essendo capace di comprendere quali sono gli obiettivi, delle grandi aziende, qual è il contesto di industry entro il quale muoversi. Quindi diciamo che quello che noi vediamo è un po' un avvicinamento di entrambi i mondi. Se posso citare solo un ulteriore elemento di facilitazione, è molto, importante anche, diciamo, l'elemento abilitante infrastrutturale, che è un po' quello che ha, dato il là in molti contesti, anche a livello internazionale, diciamo, del settore pubblico. Quindi sia dal punto di vista, normativo e regolamentare, sia dal punto di vista, fiscale, il fatto che, la spesa pubblica sia orientata a favorire questo meccanismo di collaborazione è estremamente importante. Quindi non parliamo di infrastrutture intese come banda larga, parliamo di Anche, un. Sì. anche, anche, parliamo sia di infrastrutture, e Fisiche. quindi sia di infrastrutture fisiche che di infrastrutture dal punto di vista normativo e, diciamo, in generale delle regole, che normano l'attività e la collaborazione. Noi in Italia stiamo facendo, già dei passi avanti. Il registro delle start-up, l'estensione del registro delle start-up alle PMI, innovative, i fondi stanziati in CDP, in Vitalia, insomma, sono dei passi che stanno muovendo in questa direzione il sistema paese. A proposito di questo indice che lei ha anticipato, Digital Collaboration Index, siamo messi male come in altri indici che sono stati rilevati a livello internazionale anche da voi stessi? Diciamo di sì, non siamo messi bene, ma bisogna vedere come intendere questa affermazione, nel senso che In realtà abbiamo di fronte a noi un grande spazio di miglioramento. Ci sono circa 35 miliardi di euro a disposizione nel caso noi riuscissimo a riportarci con i valori del Digital Collaboration Index a livello di quello che noi abbiamo identificato sono le aziende campione, quindi quelle che meglio operano in un contesto di open innovation. Quindi è vero, non siamo diciamo tra i migliori paesi, poi in realtà ci sono caratteristiche migliori e caratteristiche peggiori, come in ogni sistema complesso, però diciamo che la nota positiva collegata a questo gap che ci separa dall'ottimo, tra virgolette, o comunque da un livello raggiungibile, c'è il fatto che l'Italia ha davanti a sé una finestra di opportunità che, se sarà in grado di cogliere, le permetterà, sfruttando questa leva, di crescere molto, di crescere e di far sviluppare anche un tessuto innovativo a livello di paese italiano, insomma. Adesso cambiamo argomento. In Italia ci sono 6.000 porte telepass, oltre 300 varchi tutor, quelli che misurano la velocità sia istantanea ma soprattutto la velocità media sulle autostrade e su alcune superstrade ANAS anche, e soprattutto ci sono migliaia di autovelox sparsi sul territorio. Però ci si sta facendo molte domande sull'utilizzo che si può fare di questi strumenti in modo automatico per rilevare alcune infrazioni che non sono infrazioni al codice della strada, come il passaggio col rosso, il limite di velocità, che sono le tipiche infrazioni che vengono determinate con questi strumenti. Si possono fare molte cose. La tecnologia permette di fare molte altre cose, il problema spesso è burocratico. È una cosa di cui si sta parlando anche alla Camera e al Senato nella fase di conversione in legge della legge di stabilità, che ancora non è stata approvata ma sarà approvata a breve, per far sì che anche in maniera automatica attraverso questi sistemi si possano rilevare e intercettare i veicoli che non hanno l'assicurazione, non hanno la revisione. Poi si tratta di trovare il proprietario e sanzionarlo, però tecnologicamente è una cosa che si può fare. Basta mettere in rete tutti questi strumenti. Non tutti questi strumenti sono connessi in rete, ma buona parte di questi strumenti sono connessi in rete, e poi bisogna mettere e condividere tutti i dati che vengono raccolti con le banche dati che oggi sono disponibili in Italia. Molte cose sono già state fatte, però molte altre si potranno fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Vedremo quello che verrà deciso all'interno della legge di stabilità. Una cosa già si può fare e lo possono fare i funzionari di polizia, i poliziotti sulle strade e anche le altre forze dell'ordine per le assicurazioni. Sapete che non c'è più l'obbligo di esporre il tagliando dell'assicurazione, perché il controllo può essere fatto tramite la targa interrogando un'apposita banca dati. Al di là di quello che la burocrazia permette di fare, che cosa è possibile fare con la tecnologia? Alcune cose sono possibili già da tempo. Allora, ho fatto una chiacchierata con alcuni dei produttori di auto velox, chiamiamoli così, ma alcuni sono strumenti anche più sofisticati del classico auto velox. Gianfranco Polizzi è presidente di Sintel Italia. Siamo partiti dalle tecnologie che permettono di rilevare in modo molto semplice la velocità. Ci sono varie tecnologie per rilevare la velocità. Normalmente noi siamo abituati storicamente all'autovelox. L'autovelox è uno strumento che viene posizionato a fianco della strada e attraverso dei sensori all'infrarosso misura fisicamente in quanto tempo la macchina passa davanti a questa postazione, detto in maniera semplice. Ci sono altre soluzioni che si basano su laser, che è un puntatore ottico che misura la distanza di un bersaglio in avvicinamento, e ci sta infine un'altra tecnologia, che è la tecnologia radar, che funziona sostanzialmente nello stesso modo. Viene emesso un lobo da un strumento e la macchina che, diciamo, è inserita in questo lobo viene misurata, diciamo, nella distanza e dunque nella velocità che progressivamente emette. Queste sono tecnologie consolidate, ma ad oggi che cosa è possibile fare? Come è possibile rilevare la velocità? Quali sono le varie modalità? Sì, dunque io le parlavo di quelle che sono, diciamo, le basi tecnologiche, le varie basi tecnologiche. Tutto questo poi viene applicato in alcuni strumenti che sono, come dicevo, per esempio l'autovelox, il laser, normalmente applicato su degli strumenti portatili usati dal poliziotto su strada, vengono chiamate pistole laser. La soluzione radar oggi viene applicata in strumenti che possono essere sia fissi, ma, e questa è la grande novità di questi ultimi anni, anche imbarcati. Vuol dire che sulla macchina della polizia esiste uno strumento che misura e rileva la velocità di una macchina che può superare la macchina della polizia o che gli viene incontro. Questo consente alla pattuglia di avere una forte mobilità sul territorio e dunque di consentire un controllo della velocità anche in situazioni più dinamiche e dunque non dando all'automobilista la certezza del punto dove avviene la relazione. Diciamo, ha un effetto deterrente, ha una, diciamo, una forte efficacia soprattutto in ambito urbano, dove anche a basse velocità si riesce in qualche maniera a far sì che alcuni fenomeni come l'incidentalità delle categorie più deboli, ciclisti, motociclisti, pedoni soprattutto, in effetti attraverso questi strumenti negli ultimi anni è stata in qualche maniera contrastata. Tutto ciò, se lo si accoppia ad una videocamera, si possono rilevare le identità del veicolo, quindi la targa sostanzialmente. Da questo punto di vista, anche in questo caso stiamo parlando di tecnologie consolidate già da anni, o ci sono delle novità degli ultimi anni? No, diciamo che tutti questi strumenti di cui le ho parlato, dalla postazione fissa autovelox al laser al radar, sono sempre accoppiati ad una telecamera, perché in qualche maniera la normativa prevede che ci sia l'obbligo di una documentazione a richiesta di chi ha effettuato, diciamo, l'eccesso di velocità. Gli strumenti sono assolutamente affidabili, nel senso che per essere utilizzati devono essere comunque omologati al Ministero dei Trasporti, per cui, diciamo, la tecnologia di rilevazione è sempre abbinata o a una fotocamera o ad una telecamera. Per quanto riguarda la capacità di questi strumenti di svolgere altre funzioni, lei ha detto una cosa assolutamente esatta, nel senso che una telecamera può rilevare dalla targa i numeri, leggerli automaticamente e a quel punto corredare il verbale sia di questa lettura automatica, sia di poter interrogare una banca dati rispetto a eventuali evidenze che questa targa presenta, per esempio ha pagato l'assicurazione, per esempio ha passato la revisione tecnica, che, come lei sa, bisogna passare ogni 2 anni, insomma, in funzione dell'età della macchina. Sì. Qui sicuramente questi strumenti oggi accompagnano le tecnologie di rilevazione della velocità. Queste tecnologie sono oramai consolidate e anche molto affidabili, però quanto affidabili e soprattutto in che condizioni possono operare? Paolo Sodi è amministratore delegato di Sodi Scientifica. Allora, per quanto riguarda il notturno, ovviamente ci sono sistemi di illuminazione che permettono di fare delle foto bellissime anche di notte, tra l'altro senza abbagliare il conducente, perché si possono utilizzare sia fonti luminose nel vicino infrarosso, sia fonti luminose ultimamente a LED che, pur non andando nella fascia infrarossa, permettono un'emissione talmente limitata che dalle prove che abbiamo fatto noi e che sono state omologate dal Ministero dei Trasporti non abbagliano assolutamente né il conducente né, diciamo, la persona, diciamo, il veicolo che viene di fronte. Senta, per la lettura della targa è più importante, immagino che sia molto importante la qualità dell'immagine, ma sì, altrettanto anche i software che riescono dall'immagine a ricavare i numeri veri. Da questo punto di vista ci sono state delle evoluzioni negli ultimi anni? Sì, allora i cosiddetti sistemi OCED, cioè di riconoscimento dei caratteri, anche qui sono comparsi ormai molti anni fa i primi prototipi e si sono via via nel tempo migliorati continuamente, tanto da dare appunto ad oggi una affidabilità addirittura maggiore di quella che è la media, diciamo, della lettura umana. Quindi ogni persona può appunto cadere in errore nel leggere il numero o una lettera della targa. L'OCR è quantomeno comparabile al numero di errori, diciamo, che può commettere l'uomo, o addirittura essere migliore, insomma, in questo senso. Beh, questo è uno dei casi in cui sicuramente la macchina è migliore dell'uomo, e ci sono sempre più casi in cui la macchina è migliore dell'uomo, e questo è un tema di cui abbiamo parlato e sicuramente torneremo a parlare, perché c'è un dibattito in tutto il mondo, sia a livello scientifico, industriale e anche politico, non così battuto a livello politico, però c'è qualcuno che ne sta discutendo, ne sta parlando nel mondo, perché se le macchine intese come somma di computer, software e hardware e mezzi meccanici che poi diventano e si trasformano in robot, diventano sempre più bravi e spesso più bravi dell'uomo, e questo potrebbe creare tutta una serie di problemi, non solo dal punto di vista del lavoro, cioè macchine che rubano posti di lavoro, ma anche di altro genere. Parlavamo poco fa dei veicoli a guida autonoma, c'è tutto un contesto normativo, ma non solo normativo, anche di abitudini, di consuetudini e di mercato da costruire, e in quel caso già oggi le macchine sono molto brave, forse non brave come l'uomo, ma fra qualche mese o fra qualche anno le macchine saranno più brave dell'uomo, e come dicono gli esperti che stanno costruendo questi sistemi, non dobbiamo fare una macchina perfetta, dobbiamo fare una macchina che sia poco più brava dell'uomo, e ci stiamo quasi arrivando, per poi ridurre il numero di incidenti, creare condizioni di trasporto anche più agevoli per persone che non riescono magari oggi a guidare. Un ascoltatore fa notare che con la macchina, con il robot, che è una macchina, sembra una specie di stampante 3D che ha realizzato la startup di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Questa startup si chiama Bond.co, se volete vedere come è fatta questa macchina, come funziona e anche quali sono i servizi. Questo ascoltatore ci fa notare che con questa macchina sarebbe possibile fare firme false. Anzi, io toglierei l'ipotesi, cioè sicuramente si possono fare le firme false, non penso che sia molto complicato raccogliere, scansionare la firma di una persona e quindi rubare la firma originale, farla imparare al computer, alla macchina che fa una firma. Certo, poi ne va della reputazione di questa startup. Però è anche vero che macchine di questo genere potrebbero essere costruite e riprodotte in modo molto semplice, se non oggi, domani, da criminali che fanno firme false. Poi non so se una perizia calligrafica sia in grado di capire se la firma è stata fatta da un robot, da una macchina o da una persona umana. È vero che il tratto e la pressione che l'uomo esercita forse è diversa da quella del robot, ma chi lo sa, magari invece il robot è così bravo che fa una firma molto, molto, molto simile, quindi anche la perizia calligrafica magari non riesce a capire. Sarebbe un test da fare, magari l'hanno già fatto, ma non ne ho notizia, di questi di New York che hanno realizzato questa startup. Bisognerebbe chiederglielo, magari, insomma, potrei mandare una mail per chiedergli questa cosa. Dunque, vi anticipo che dal 6 al 9 si tiene a Las Vegas, come ogni anno, il CES, il Consumer Electronics Show. Io sarò lì per tutta la settimana, realizzeremo anche uno speciale che andrà in onda il pomeriggio alle 14, di 5 minuti ogni giorno, con alcune notizie importanti che arrivano dalla fiera. Una curiosità, che è anche una cosa un po' ridicola, però ve la racconto perché è simpatica. Allora, la Consumer Technology Association, che è il nuovo nome della Consumer Electronics Association, per estendere un po' il campo di azione, si chiamano appunto Consumer Technology Association, ha scritto a tutti i giornalisti dicendo: attenzione, vogliamo che quello che una volta ancora oggi per me si chiama Consumer Electronics Show si chiami solamente CES. Però giustamente Gianfranco Giardina su Twitter ha fatto presente che CES in Italia significa una parola, insomma, una cosa che sappiamo tutti, e gli americani non gli hanno risposto, come dire, noi lo vogliamo chiamare Consumer Electronics Show, non CES, perché CES non è che sia proprio il massimo detto all'italiana, quindi noi lo chiameremo e continueremo a chiamarlo Consumer Electronics Show, oppure se vorranno Consumer Technology Show, però ormai hanno registrato, il marchio registrato è CES e quindi va chiamato così. Noi facciamo, insomma, lo raccontiamo e spieghiamo che cos'è. Spero che non ci scrivano intimandoci di utilizzare il marchio registrato CES. Concludiamo questa puntata di 2024, torniamo la prossima settimana. Vi ricordo che noi siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13.30 e le 14, quindi con una breve replica, oppure online con il nostro servizio podcast. Consigliate di ascoltare 2024 ai vostri amici e ai vostri parenti, insomma fateci pubblicità, perché il passaparola in questi casi è la cosa migliore. Quindi speriamo di avere nuovi ascoltatori che entrino in contatto con la tecnologia. È tutto, io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.